Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica a tutti da Gegè Telesforo, buona domenica dal Groove Master Studio per il soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Buonasera a Francesco Tromba e buonasera all'ingegnere del suono Riccardo Bomarzi. Ciao a tutti. Ciao Francesco. Buonasera, buonasera. Ecco Riccardo, questa sera in qualche modo tu sei protagonista anche del nostro programma, perché hai registrato il primo album che oggi presentiamo in anteprima qui al soundcheck. Che bello. Hai registrato e missato questo album incredibile che ha un protagonista. Il meraviglioso musicista italiano con tutti i suoi strumenti, Dario De Ida. Beh, un mostro vero e proprio di bravura. Sì, grandissimo talento, grande musicalità, grande perizia sugli strumenti, ma anche grande disciplina. Soprattutto quella, perché come abbiamo scoperto chiedendo anche alla sua famiglia e ai suoi fratelli, che sono anche dei grandissimi musicisti, a sua madre, che anche lei era una musicista, è stata una musicista per tanto tempo, essendo nato anche nella New Orleans, come piace dire a te, d'Italia, che è Salerno. Comunque si è applicato nel corso degli anni sempre in maniera veramente quasi militare. Alfonso me lo ha raccontato qualche settimana fa proprio qui al soundcheck. Mio fratello Dario ha sempre studiato, studiava tantissimo quando era ragazzo e studia tantissimo ancora oggi, anche se non so dove possa trovare il tempo per studiare, perché è impegnato con il conservatorio. E questa è anche un'altra cosa bellissima di Dario, che insegna basso elettrico e contrabbasso nel conservatorio dove si è formato e diplomato, che è quello della sua città. Sì, questa è una cosa veramente bellissima, soprattutto per i ragazzi che riescono a frequentarlo, perché imparano da un maestro vero e proprio. Esatto, e poi tantissimi concerti in Italia e in giro per il mondo, oggi impegnatissimo con il trio e il quintetto del formidabile chitarrista Kurt Rosenwinkel, che lo vuole con sé e insomma sta dando anche grande spazio sul palcoscenico internazionale al nostro Dario De Ida, del quale oggi presentiamo in anteprima il nuovo album, a distanza di 14 anni dal primo. Mazza, così tanto è passato. È come D'Angelo, Dario De Ida. Devi riuscire a fermarlo. Io riuscii a fermarlo allora, facendogli registrare un album in trio, poi con vari guest, tipo Di Battista e anche i suoi fratelli, ma in trio con Stefano Sciarda alla batteria e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, allora giovanissimo. E finalmente quest'anno siamo riusciti a ingabbiarlo con Bomarzi qui proprio nel Groove Master Studio e a fargli realizzare quest'opera più unica che rara, perché l'album è stato realizzato utilizzando quasi ed esclusivamente gli strumenti di Dario De Ida e un microfono. Pensa addirittura. Quindi un solo microfono. Siete riusciti a incatenarlo. Ha suonato tutto, perché lui suona tutte le parti, cioè fa tutte le parti ritmiche, tutte le parti armoniche, tutte le parti melodiche e solistiche, tutte fatte con i suoi strumenti: contrabbasso, basso elettrico, il jazz Fender, ma anche basso semiacustico, che oggi è uno strumento che lui utilizza tanto, il fretless e così via. E infatti Bomarzi ha lavorato non poco per dare in qualche modo un equilibrio, no? Tra l'altro non tutti i suoi strumenti, ma due sono i tuoi strumenti. Due sono i miei. Il contrabbasso e il pianoforte. Sì, perché gli abbiamo chiesto anche di suonare il pianoforte. Tra l'altro la cosa buffa è che avevo il mignolo della mano destra fasciato, ingessato, perché se l'era fratturato proprio qualche giorno prima. Pensa tu, cioè è riuscito a suonare. Sì, ci sono molte storie, potremmo raccontare, fare un film su questa produzione discografica. Fatto sta che oggi presentiamo in anteprima My Favorite String di Dario De Ida, volume 1. Quindi ci sarà anche un volume 2. Speriamo di riuscire a realizzarlo in tempi brevi. Prima dei 14 anni. Diciamo. Sì, però sono contento di annunciare che Dario De Ida sarà qui al soundcheck di Radio 24 nel nostro studio sabato prossimo, quindi ci divertiremo con lui. Non vedo l'ora che sia sabato prossimo. Sì, per farlo suonare dal vivo ho invitato anche Sebi Burgio al pianoforte e Dario Panza alla batteria. I nostri musicisti, quindi un trio stellare sabato prossimo. prossimo dal vivo qui al Soundcheck di Radio 24. Direi di partire con la musica, il brano, un classico dello swing di Benny Goodman e Charlie Christian, intitolato Airmail Special. La versione di Ella Fitzgerald è famosissima, ma questa realizzata da Dario De Ida farà la storia proprio per il suo strumento. Dario De Ida in anteprima al Soundcheck di Radio 24. Sì, è vero, finalmente, fra pochissimo sarà pubblicato il nuovo album di Dario De Ida in anteprima qui al Soundcheck di Radio 24, album intitolato My Favorite Strings, dove troverete questa pirotecnica versione di Airmail Special per gli strumenti di Dario De Ida. Poi tutta la parte minimal ritmica, la cosa bella è che ha suonato praticamente sulle hand clapping e un rullante, e tutto il disco funziona in questo modo, proprio per mettere in evidenza il più possibile l'arte e il talento di uno dei più importanti musicisti italiani nel mondo. L'album sarà pubblicato il 14 ottobre, che è il tuo compleanno, ti ha fatto il regalo. Mi sono fatto il regalo, no, me lo sono fatto io, perché da producer abbiamo scelto la data di pubblicazione, doveva essere a metà ottobre, mi hanno detto vabbè, facciamolo uscire il 14, e tra l'altro, lo ripeto, Dario De Ida sarà qui nel nostro studio sabato prossimo proprio per parlarci anche di tutte le sue avventure musicali, come, da dove viene questa passione per la musica. Noi lo sappiamo ormai, io la storia la so benissimo. Beh, ma vorrei fratello, che la raccontasse agli amici di Radio 24, perché è un grande esempio, sul serio. Beh, anche perché è praticamente il miglior bassista elettrico del mondo. È vero, anche Marcus Miller, pensa che ho incontrato Marcus Miller in aeroporto quest'estate, mm-hmm. e l'ho fermato, ci siamo salutati, gli ho detto: sai che ho prodotto il nuovo album di Dario De Ida, me lo devi mandare subito, salutami Dario, ce l'hai qui? Ho detto: no, guarda, dobbiamo ancora fare il mastering. Allora, poi il mastering è stato fatto da un altro contrabbassista italiano eccellente, che è Luca Bulgarelli. Ah. Quindi ci sono molte storie. Sì, pensa, quando ho chiesto a Luca, ti andrebbe di fare il mastering del disco di Dario? Ho detto: per me è un onore, ma stai scherzando? Poi si sono sentiti, si sono date indicazioni, abbiamo lavorato abbastanza su questa pubblicazione, giusto? Esatto, abbiamo lavorato molto e abbiamo lavorato con serenità, però. Ecco, ebbene. Allora, esatto. Dario De Ida, direi di ascoltare ancora qualcosa. Questo è proprio il brano originale scritto da Dario, una composizione in 5/4, sapore etnico per questo brano che dà il titolo all'album, si intitola My Favorite Strings. Soundcheck, il suono della musica. Si intitola Grace, il nuovo album della bravissima Liz Wright, che torna qui al Soundcheck di Radio 24. Il brano era Singing in My Soul, per presentarvi proprio questa recentissima pubblicazione di questa vocalist ormai a cavallo fra la tradizione del gospel, del soul, del blues e anche il contemporary R&B e un po' di jazz, ma da sempre ha avuto questa passione. Eh sì, lei, tanto per cambiare, si è formata con il gospel e partita da lì, certo. Perché suo padre era un ministro di una chiesa battista e quindi ha iniziato tutto da lì. Rispetto all'album precedente che avevamo anche ascoltato qui a Soundcheck, Freedom and Surrender di 2 anni fa, c'è una presenza molto più ampia delle chitarre, propria anche perché il produttore Joe Henry, che tra l'altro è il cognato di Madonna, è un chitarrista, è un songwriter americano molto importante e molto famoso negli Stati Uniti, anche molto bravo come produttore. Ecco, c'è una cosa che sto notando, che molti artisti accreditati da un po' di tempo fanno una ricerca proprio sul loro background culturale, musicalmente parlando. Quindi si sta tornando a scoprire quasi il suono dei pionieri, il bluegrass, il country, il folk, il blues. È come se si fossero quasi seccati di fare ricerca anche sull'elettronica in qualche modo. Beh, c'è un ritorno alle sonorità di una volta, forse anche per avere un approccio più acustico, dopo aver sperimentato la fase elettronica, magari si vuole tornare indietro a un suono più primordiale, possiamo dire. Io l'ho sentito tutto l'album di Liz Wright e mi è piaciuto tantissimo. In alcuni momenti mi sono un po' stancato, no? Probabilmente proprio perché non ho quel tipo di formazione, però ci sono delle cose veramente belle, anche perché l'organico scelto da Liz Wright è di prestigio. Beh sì, anche lei poi dal punto di di vista vocale è molto brava e riesce a mantenere sempre molto alta l'attenzione. Maturata vocalmente, come dicevi tu, ma anche nell'approccio proprio con gli arrangiamenti e le composizioni. E ci sono anche molti brani che vengono dalla tradizione. Sì, sì, tanti brani che sono degli standard. Eccola qui, Liz Wright al soundcheck di Radio 24. L'album si intitola Grace, il brano è Barley. Soundcheck. Il suono della musica. Di J.J. Why am I treated so bad? Perché mi trattano così male? Una vecchia composizione di Pop Staples per gli Staple Singers, recuperata ultimamente dalla nostra amica Didi Bridgewater per il nuovo progetto discografico, ma anche per il nuovo progetto live ormai intitolato Memphis. Sì, Didi Bridgewater lascia un po' il suono più jazz, quello che l'ha portata al grande consenso, ai grandi consensi internazionali, al grande successo, per tornare anche lei, come ha fatto Liz Wright, alle sue origini, alla musica che ascoltava quando era ragazzina, proprio il Memphis style. Eh sì, perché è un ritorno vero e proprio alle origini, perché quando era piccola, quando aveva neanche 5 anni, Didi stava alla radio ad ascoltare la radio di Memphis, dove tra l'altro lavorava anche suo padre, che era un trombettista amatoriale, però lavorava appunto nella radio maggiore di Memphis, che si chiamava VDA. Il suono che trasmetteva erano appunto i classiconi Memphis Sound del soul dell'epoca, quindi siamo negli anni 70. E fra i brani preferiti di Didi Bridgewater c'era anche questa Why Am I Treated So Bad, brano che io sinceramente la prima volta non l'ho sentito fatto dagli Staple Singers, ma da una versione live del Conobal Adderley Quintet insieme a Joe Zawinul in un disco famosissimo intitolato The Country Preacher. E poi anch'io ne ho fatto una versione in un album per Lago Jazz diversi anni fa. Fatto sta che questa è una canzone importante perché è una canzone dedicata ai cosiddetti Little Rock Nine, che era un gruppetto di 9 studenti afroamericani che nel 1957 si iscrissero alla scuola superiore di Little Rock nell'Arkansas, e il governatore mandò proprio in quel periodo i soldati ad impedire l'ingresso ai nuovi alunni. Una storia che abbiamo visto più volte raccontata anche dalla cinematografia nera americana. Eh sì, è dei classiconi veri e propri in questo disco, e veramente ve lo consiglio perché scoprirete tantissime versioni di canzoni comunque anche riadattate in maniera moderna, cioè c'è il rispetto per la tradizione, per la versione originale, però c'è anche quel tocco di modernità, di contemporaneità che viene dato appunto dagli arrangiamenti di Didi e di Kirk Wallum, che ha lavorato dal punto di vista sia della produzione che degli arrangiamenti di questo disco. Sì, e gli stessi arrangiamenti li ritroverete anche nei concerti live di Didi Bridgewater. Io ho visto il concerto diversi mesi fa e in occasione del Torino Jazz Festival andai proprio a trovare Didi Bridgewater perché mi aveva raccontato anche che si era fatta male, era caduta da scale mobili nelle Filippine, infatti è salita sul palco con in sedia a rotelle, l'ho accompagnata proprio io sul palco con la gamba ingessata. Fatto sta che poi, come è partito il concerto, è tornata la gazzella di un tempo, se n'è fregata dell'ingessatura e ha fatto un grandissimo show. Devo dire che all'inizio del concerto il pubblico non sapeva che cosa aspettare, perché non poteva proprio immaginare che il suono era quello più arcaico, più blues, quello proprio del Memphis style, quindi distante dal repertorio jazz e anche afro che ha proposto Didi Bridgewater negli ultimi anni. Beh, però poi lei ovviamente ha preso in mano la situazione. Quando la vedi sul palco è un'esplosione di energia impressionante. Mia, no, convince sempre, convince. Sì. Qualsiasi cosa canti. E si è aggiudicata anche il favore dei lettori della rivista Jazz It, perché insomma è risultata la vocalist internazionale più amata. Beh, è anche proprio la più autorevole, possiamo dire. Allora, direi di chiudere questa puntata del Soundcheck ascoltando un altro brano tratto da Memphis, il nuovo album di Didi Bridgewater. Il brano si intitola I Can Get Next to You. Noi ci risentiamo sabato prossimo. Sì, con Dario De Idda. Con Dario De Idda, porca miseria, sono emozionato. Torna Dario nello studio, difficile incontrarlo in questo periodo. periodo, eh? Sì. Dobbiamo approfittare, Bo Marzi, fargli dobbiamo fare incatenarlo. Sì, sabato prossimo dobbiamo approfittare della sua... No, dobbiamo fargli fare tutto quello che si può fare, anche fotografie. Guarda, sai che faccio? Invito pure Paolo Soriani, il grande fotografo, e così riusciamo a immortalare il momento, dai. Sarebbe perfetto. Va bene, vi lascio con Didi Bridgewater, grazie Francesco, le tue informazioni sono sempre preziose. Grazie a te Gigi, grazie agli ascoltatori. Hai preparato novità per le prossime settimane? Sì, ci sono un po' di novità interessanti. Anche dal contemporary R&B? Sì, anche sul versante elettronico. Vabbè, cioè però sabato prossimo ci concentriamo con la storia di Dario, sì. E poi magari per domenica proponiamo qualcosa di okay, nuovo. Eccola qui Didi Bridgewater, buona settimana a tutti e buona domenica e buona musica da Gigi Telesforo.